681. Bianco mangiare. Mandorle dolci con tre amare, grammi 150. Zucchero in polvere, grammi 150. Colla di pesce in fogli, grammi 20. Panna o fior di latte, mezzo bicchiere a buona misura. Acqua un bicchiere e mezzo. Acqua di fior d'arancio, due cucchiaiate. Prima preparate la colla di pesce, ed è cosa semplice. Pigiatela con le dita in fondo a un bicchiere e coperta di acqua lasciatela stare onde abbia tempo di rammollire. E quando ve ne servirete, gettate via l'acqua e lavatela. Sbucciate e pestate le mandorle in un mortaio, bagnandole di quando in quando con un cucchiaino d'acqua. E quando le avrete ridotte finissime, diluitele con l'acqua suddetta e passatele da un canovaccio forte e rado, procurando di estrarne tutta la sostanza. A tal punto preparate uno stampo qualunque della capacità conveniente. Poi mettete al fuoco in una cazzaruola il latte delle mandorle, la panna, lo zucchero, la colla, l'acqua di fior di arancio. Mescolate il tutto e fatelo bollire per qualche minuto. Ritiratelo dal fuoco e quando avrà perduto il calore, versatelo nello stampo immerso nell'acqua fresca o nel ghiaccio. Per sformarlo basta passare attorno allo stampo un cencio bagnato nell'acqua bollente. La bollitura è necessaria onde la colla di pesce si incorpori col resto, altrimenti c'è il caso di vederla precipitare in fondo allo stampo.